Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il modello Ramona era uno di quegli articoli che noi definivamo merluzzi, cioè prodotti che non si riuscivano a vendere perché non piacevano e dei quali ovviamente avevamo i magazzini pieni. Ciao, sono Francesco, vivo a Torino, sono sposato, ho un figlio. Ero un ragazzino, facevo la seconda media ed ero in gita con la mia scuola, cioè con il seminario di Novara in Belgio, in un paesino di cui non ricordo assolutamente nome, sconosciuto, ma che noi andammo a visitare perché era gemellato con la Madonnina del Cuore d'Oro del seminario di Novara. Cioè c'era, diciamo, lo stesso feticcio, non so se si chiama così, lo stesso oggetto in chiesa era una Madonnina del Cuore d'Oro. C'era questo gemellaggio, andiamo in Belgio. Facciamo 3 giorni di delirio nell'albergo e l'ultimo giorno Don Enrico, il preside della scuola media dell'ora, del seminario, da noi chiamato Don Cilappa, ma non vi spiego il perché, ci dice: chiunque questa sera metta fuori la testa dalla camera verrà sospeso. Io sono in camera con Paolino, dopo un'ora, 2 ore di silenzio, e dico: vabbè, dai, ma non sarà mica lei che ci controlla. Apro la porta e mi trovo Don Cilappa che mi squadra immobile in mezzo al corridoio. E lì ho avuto, credo, l'unico e ultimo colpo di genio della mia vita. Lo guardo e gli dico: ma è lei che ha bussato? Lui mi osserva e mi dice: no. E io: ah, forse allora sono stati quelli dall'altra stanza. E lui corre nell'altra stanza, noi ci chiudiamo dentro e lì finisce la serata. Non so che fine abbiano fatto quelli dall'altra stanza, ma qual è stata l'intuizione più veloce, più repentina e più giusta arrivata al momento giusto che mi sia capitata nella mia vita, mai più negli anni a venire. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi raccontiamo storie come al solito e, se non l'avete capito, oggi vogliamo sentire qual è stata la vostra più grande intuizione. 349-238-6666 oppure Voi siete qui Radio 24. È una puntata che parla di vendere dei prodotti e parla di venditori, quindi tutti i venditori che sono all'ascolto, che sicuramente hanno avuto dei colpi di genio riguardo al loro lavoro e non solo, sono pregati di rispondere e di mandarci i loro messaggi. Mi scrive Fulvio, ad esempio: la mia più grande intuizione è stata decidere di non andare più a votare. E va bene. Emiliano: quando nella finale del torneo estivo di calcetto al villaggio capii che l'attaccante che stava tirando il rigore, se guardava a destra, l'avrebbe tirata a sinistra e parai il rigore. Questa è Palombella Rossa, è presente? Ma Michele, ma se tu guardi a destra, io lo so che tiri a sinistra, ma io volevo tirare veramente a destra, io guardavo a destra, ma volevo tirare veramente a destra. 349-238-6666, voi siete qui, Radio 24, il nostro profilo Facebook, parliamo di colpi di genio, sentite la storia di Franco. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Non sono parole mie, queste. Monicelli le fa dire al Necchi in una memorabile scena del film Amici miei. Io le prendo in prestito per definire la particolare estetica del genio in versione napoletana di cui sono stato testimone in un pomeriggio di tanti anni fa. Era il 1982 ed io ero addetto al call center, ma questo termine non era stato ancora inventato o importato in Italia, quindi la mia mansione era definita quello che risponde al telefono ai clienti e agli agenti. Lavorare al call center non aveva allora quella connotazione un po' negativa che ha assunto oggi, quasi simbolo di una gioventù istruita ma proletarizzata. Eravamo a Torino e io e i miei colleghi ricevevamo telefonate di agenti e clienti da tutta Italia. Ovviamente non esistevano i telefoni cellulari, gli sms, le email, tutti quegli altri mezzi di comunicazione così comuni oggi. Anche i fax avrebbero fatto la loro comparsa solo qualche anno dopo. A quel tempo tutto veniva dettato al telefono e annotato a mano. Ero stato assunto da questa azienda che appunto vendeva calzature e in realtà ero addetto all'ufficio commerciale. Ufficio commerciale interno, quindi non facevamo solo il call center, facevamo anche, inserivamo gli ordini, preparavamo i documenti di spedizione, tutto quello che mandavamo via campioni, quindi era un lavoro un po' più articolato che non il semplice call center. Era una babele di dialetti ed accenti, un florilegio di congiuntivi, una devastazione di consecutio temporum. Errori di comprensione e di trascrizione erano quindi comuni, ma quello che rendeva veramente unico questo lavoro erano i fraintendimenti. Una cliente della Basilicata a cui avevo richiesto l'esatta ragione sociale mi rispose: figlio mio, la ragione sociale è che qua c'è stato lo terremoto. O la mia collega che, dopo essersi fatta ripetere più volte il nome della persona al telefono, me lo passò dicendomi: boh, senti tu, c'è un certo Tonino che è stato esonerato. In realtà si trattava solo di Totino di Soverato. Ma l'episodio che racconterò oggi non rientrava in questa categoria. Non si trattava di un malinteso o di una parola usata a sproposito, tanto da diventare ridicola. No, questo era puro genio. Il protagonista era il signor Domenico C., agente della nostra ditta per la Campania. My love waits for me, so andiamo, paesano, to Napoli, Napoli, Napoli. That's where my heart longs to be. Il signor C mi ricordava molto Luciano De Crescenzo. Era colto, ironico, dai modi sempre gentili e misurati. In gioventù era quasi arrivato alla laurea in giurisprudenza, ma poi, credo per problemi familiari, aveva abbandonato gli studi e si era messo a lavorare come agente di commercio. Aveva dovuto imparare ad operare in un mondo difficile, molto lontano dal suo, ed era stato abilissimo nell'escogitare soluzioni fantasiose per portare a buon fine le trattative commerciali. Quel giorno non mancava molto alla fine della giornata di lavoro quando ricevetti la telefonata del signor Domenico. Buonasera Franco, sono Domenico C. Buonasera signor C, risposi io cercando di essere molto professionale. All'epoca avevo solo 22 anni e pochissima esperienza. Caro, mi trovo presso la ditta dei fratelli Tirella che ti salutano. Senti, ma noi ne teniamo un po' di scatoloni dell'articolo Ramona? Per capirci, l'articolo Ramona era uno di quegli articoli che noi definivamo merluzzi, cioè prodotti che non si riuscivano a vendere perché non piacevano a nessuno e dei quali, ovviamente, avevamo i magazzini pieni. I merluzzi erano quegli articoli che venivano comprati perché piacevano i capi, che li ritenevano dei prodotti adatti alla vendita e poi, come sempre succede, come spesso purtroppo succede, i prodotti, alcuni prodotti poi non vengono apprezzati dai clienti, e quindi niente, ne avevamo un bello stock in casa e cercavamo di venderlo in tutti i modi. Ma certo, di Ramona ne abbiamo ancora tanti, risposi io. E lui: ah, è finito. Io: no, signor Domenico, ce n'è ancora tanto in magazzino. E lui ancora: ah, ho capito, ma allora è proprio finito. Lunga pausa, sia mia che sua. E poi lui mi dice: ma Franco, non possiamo fare niente. Tu lo sai, i fratelli Tirella sono clienti buoni, cerchiamo di aiutarli, no? Ne vogliono pochi, giusto 5-6 scatoloni. Io a quel punto avevo cominciato a sudare. Non avevo ancora capito dove volesse arrivare, dove volesse andare a parare, ma non osavo ovviamente dirgli che era sordo o pazzo, e così mi uscì con voce strozzata un semplice faccia lei. Lui allora allontanò la cornetta dall'orecchio e lo sentì dire al cliente: Franco ha detto che fino a stamattina ce n'erano ancora 25 scatoloni, ma che se li hai venduti la gente di Milano, ma siccome Franco è un amico, se vi ripigliate tutte 25 voi, quello mette il vostro ordine in testa all'altro e li manda a voi. Si sente una breve consultazione tra i due fratelli Tirella e poi il sospirato: va buono. Ora, qualcuno potrà pensare: ecco il solito napoletano un po' truffaldino, una sorta di nuovo Totò che vende la Fontana di Trevi all'americano. In realtà non è così, perché innanzitutto i fratelli Tirella erano tutt'altro che degli sprovveduti. Forse avevano capito benissimo tutto e stavano al gioco. Domenico aveva trovato una chiave, uno strumento, il genio, per superare la naturale ritrosia del compratore. I Tirella avrebbero comprato comunque, ma una quantità più piccola. Lui, invece, era riuscito a vendere una quantità maggiore, rimanendo nei limiti di quella che sapeva essere la potenzialità del cliente. Pochi giorni dopo ricevetti una telefonata dai Tirella che non la finivano di ringraziarmi per il favore che gli avevo fatto. Mi chiedevano se per caso avessi altri 25 ultimi scatoloni di Ramona da spedirgli ampressa ampressa, perché quelli precedenti li avevano già venduti tutti. I had been hanging around in bars, singing slightly out of tune. My teeth shone so brightly in those places, it looked like I swallowed the moon. Di quattro persone la foto che ci ha inviato Franco, e che è uno dei pochi casi in cui riesco a riconoscere lui, perché è l'unico uomo in mezzo a tre donne. Sono vestiti da clown più o meno, con delle parrucche in testa da clown, ovviamente ricce colorate e dei nasi rossi. Lui invece è integerrimo, con una camicia bianca e dei pantaloni neri, e non lo so se questa è la sua famiglia e sono le figlie e la moglie. Chiediamo direttamente a lui. Pronto, Franco? Ho detto ciao, come stai? Bene, bene, bene. Ho detto una baggianata, sono figlie e moglie? Non sono figlie e moglie, però sono quasi la mia famiglia, nel senso sono tre delle mie quattro socie, la quarta scattava la foto. Ah, ok, vabbè, insomma, siamo, però... Siamo insieme da 15 anni e quindi... Insomma, sono veramente una parte della mia famiglia. Ok, no, non si offenderanno, nel senso che sono bardate, quindi non si riconosce l'età. No. Non vorrei che quella che passa per la moglie ed è magari più giovane si offendesse. Franco, noi ci siamo già sentiti un anno fa. Tu ci mandasti una storia molto bella a proposito del movimento Cassina, in cui ci raccontavi di essere stato presente alle Olimpiadi nel momento in cui lui faceva quella roba pazzesca e tu facevi amicizia con un inglese, giusto? Ricordo bene. Esatto, che, sì, sì. Che era lì a fianco a te. Però, questo lo dico, per chi ci ascolta, insomma, tutto quello che dico lo dico perché ci ascolta, però perché tu lo sai, Franco ci ha regalato, non invitato, perché cerchiamo di non ricevere regali in redazione, a differenza di Mike Bongiorno che teorizzava questa cosa, no? Bisogna ricevere i prodotti che promuovi, lui perché li promuoveva ed era un altro discorso, noi non promuoviamo niente, però Franco che produce pantofole, giusto Franco? Esatto. Ce ne mandò un anno fa uno scatolone enorme che andò a Ruba, di fatto tutti in redazione cominciano a dire delle pantofole, anche perché è strano vedere un pacco di pantofole in una redazione di una radio come questa, e quindi andarono via veramente come il pane e grazie ancora. Franco, come vanno le pantofole? Come va il mercato, il lavoro? Allora, la crisi si sente ancora, però insomma ci difendiamo, via. Cerchiamo di tenere botta. Ci ricordi dove sei, dov'è l'azienda? L'azienda è a Torino. Okay. Noi però produciamo tutto in Cina. Noi in Italia progettiamo il prodotto, lo industrializziamo, però poi la fattura viene fatta in Cina, la manifattura in Cina. E tu eri a Torino anche al momento di questo racconto, giusto? Esatto, perché la sede. Esatto. È il mio primo lavoro e. Come ci sei arrivato a rispondere al telefono di un'azienda come quella? Ma allora, mio padre lavorava per quell'azienda. Okay. E io venni a Torino dalla Sicilia per stare 15 giorni e poi ci sono rimasto 32 anni. E niente, doveva essere solo un'esperienza, una breve esperienza, e poi invece è durata. E ero stato aggregato all'ufficio commerciale, che non faceva solo il call center. Altre mansioni. Sì, inserivamo gli ordini dei clienti, mettevamo i documenti per spedire, telefonavamo ai clienti per farci pagare. Un po' tutto legato alla parte commerciale. Esatto. Ci vuoi però dire esattamente che cos'era Ramona, cioè che tipo di prodotto era? Era un sandalino da donna. Sai, di quelli che tengono il cinghietto, che tengono la caviglia col cinghietto, e il tomaio, se non ricordo male, era a quadri beige e marroni in una versione, beige e rossi nell'altra. Ok, un mai più senza proprio. Esatto. Che però solo Domenico C. Ma questo Domenico C ne sappiamo qualcosa? Ovviamente noi ce ne siamo affezionati come se fosse un parente adesso. Dunque, io non ho contatti diretti con lui, però ho sue notizie. Sta benissimo, credo che abbia un'età compresa fra i 75 e gli 80. E ancora lavora ancora? Sì, assolutamente infaticabile. Ancora fa quel lavoro lì per la stessa azienda, inarrestabile. Insomma, è ancora in giro. Sarebbe bello sapere qualcosa di più. Se ce ne sai raccontare qualcosa, magari anche in futuro con una mail, lo aspettiamo. Devo dire, anche i fratelli Tirella non sono male. Non so perché, esatto. Ma mi sembra... Quelli li ho persi di vista, però erano, adesso i nomi ovviamente li ho un po' modificati, certo, però no, erano veramente dei personaggi. È veramente, appunto, è a metà tra la scena della Fontana di Trevi, sì, e quella del treno invece, sì, ecco, di Trombetta, l'ingegner Trombetta, sua figlia suona la trombetta, cioè ci piace immaginarlo così, però, no, però poi è molto più reale. Piace se passasse l'idea dello stereotipo napoletano, di quello che usa i mezzucci per vendere. È stata una genialata. No, poi diciamo che gli stereotipi hanno sempre qualcosa di vero, ed è vero che in quel modo di vivere la vita, di vivere la giornata che hanno le persone che stanno in quel pezzo d'Italia, c'è di solito una forma di intuito, una forma di ingegno che semplicemente è declinata in maniera diversa dalle altre regioni. Senti, invece, Franco, adesso voglio sapere, sono eccitatissimo dalle pantofole, perdonami, voglio sapere qual è il prodotto che tira di più in questo. Voglio sapere qual è quello che tira di più. Qual è Ramona, il vostro Ramona in questo momento? No, guarda, per fortuna noi Ramona non abbiamo, anche perché è un po' cambiato il sistema di distribuire. Una volta si compravano i prodotti e poi si sperava di venderli. Però sai, il mercato era molto più ricettivo, per cui potevi permetterti di fare degli errori, avere il famoso Ramona, averlo in casa e magari poi cercare di venderlo con degli sconti, oppure insomma, oggi non te lo puoi più permettere. Okay. Per cui fortunatamente non abbiamo di Ramona, non ne avete. Non abbiamo. Invece il pezzo forte? Il nostro cavallo di battaglia restano sempre quelle pantofoline a forma di animale. Certo. Un po' caricaturali. Ci avevi raccontato di pantofole a forma di mostro che sarebbero, sì, state. Mi sembra di avervi anche mandato qualche foto. Sì, diciamo che sono stata la novità. È un prodotto che ovviamente ha bisogno di farsi conoscere, anche perché noi non abbiamo purtroppo grandi mezzi per promuovere i nostri prodotti, non abbiamo i fondi per Probabilmente, pubblicità. Probabilmente, però, insomma, ci vorrebbe, lo stiamo introducendo. Ci vorrebbe un signor Domenico anche per voi. Io ti ringrazio tanto, Franco, per la storia e per la chiacchierata. Grazie mille. Ciao, a presto, grazie. Ciao. 349-238-6666, visto che si parla di grandi intuizioni, della vostra più grande intuizione, Sandro ci scrive: quando a metà del primo tempo di Milan-Liverpool, nella finale di Champions, quindi parliamo della finale di Champions del 2005, mi pare, no, 2007 l'ha vinta il Milan, forse 2005-2006, ricordiamo quella finale che il Milan vinceva per 3-0, durante il primo tempo io puntai sulla vittoria del Liverpool, e questo sì che è veramente un colpo di genio, Claudio, e anche un po' di culo. Claudio, quando capì che mia sorella e il mio amico, che tanto si detestavano, avrebbero potuto combinare qualche cosa insieme, li invitai in montagna un weekend con altri amici, sono sposati da 5 anni e hanno un figlio. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Gianmarco Ferronato al mixer, Margherita Ina ovviamente come al solito al telefono e dappertutto e tutto il resto, Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Franco, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Claudio Boato, vivo a Padova e la storia di domani è la mia. Parla di un modo diverso di praticare lo sport. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.